init music. Init for you. Init your music for you. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Radio Sherwood 97800, Radio Sandona 102.2, nuova puntata settimanale di Music for Youth, purtroppo con Alvise Favotto presente e purtroppo con Daniele Terzariola, ma a risollevare le sorti di questo studio ci sono finalmente degli ospiti. Ciao Al. Innanzitutto ciao mio bel mini pony, è bello vederti anche questa settimana. Gli ospiti della settimana appunto sono gli Elettro Fandango. Buonasera Elettro Fandango. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, noi ne abbiamo quattro qui, ce li hanno incartati e ce li hanno messi qui direttamente da un banco frigo. Li hanno anche gettati tra una fontana, hai presente, ti ricordi lo spot della Cookie? Sì. Con la stessa identica cosa. Con i due che lanciavano il pollastro. Esatto. Sono sempre grandi momenti. Allora, io direi di cedere la parola al cosciotto. Chi fa il cosciotto? Allora, noi, come dicevo, abbiamo quattro stinchi di santo, insomma, qui presenti, che ora andiamo a presentare partendo da quello che ho più vicino. Lei, chi è? Io sono Francesco, il batterista. Poi, chi mi si avvicina? Buonasera, io sono Mendoza, il chitarrista. Bella presenza. Ciao a tutti, io sono Giovanni, il tastierista. E Alberto, perché lui presenza di casa. Io sono Alberto, il video proiezionista. Ma è una figura di spicco all'interno del Elettro Fandango, a parte che il nostro pubblico ignorante qua, più no, meno di noi sicuramente, noi siamo proprio, esatto, la punta. Cioè, pensa di parlare a noi. Beh, se lo dico io sarebbe un po' come sbrodolarsi addosso, quindi lo dice un altro. Sì, lui è la figura di spicco perché oltre alle videoproiezioni è anche il cantante. Sì, assolutamente. E ho sentito anche che l'ho mandato in spedizione punitiva in alcune radio a Milano e la vostra presenza invece è pari a zero. Complimenti. Dove l'hai sentito? Perché è una notizia falsa. È tendenziosa, no? Un po' di quelle che girano in questi giorni. Esatto, poi lui fa anche una serie di altre attività a carattere sociale, ad esempio, non lo so, fa la Gatorade da casa e la serve al resto del gruppo, per dire, ma è una delle è bravissimo in arte toppiaria, si occupa di tirare su cespugli, guardate che, cioè, quest'uomo poliedrico. Complimenti Albertone, veramente certe cose si scoprono. E la gaucia mole. Elettro Fandango, benvenuti, voi siete uno delle nostre punte di diamante di questa programmazione di marzo. Sì, siamo a marzo, mi pare proprio di sì. Pubblico di tutto rispetto, altro che noi, i nostri ascolti da 4 schei, tra una roba e l'altra. Esattamente, sì. Voi siete il classico giocatore di Serie A che viene a giocare nell'Avellino e spera di valorizzarlo, in pratica. O siete la squadra grossa che viene a farsi... Signori che viene a giocare al Bologna. O la squadra grossa che viene a farsi l'amichevole il mercoledì come riscaldamento. Noi siamo le giovanili, tipo di che cosa? Del Montepulciano. Della SPAL, di quelle cose lì. Parliamo di cose serie. Elettro Fandango, il progetto inizia nel 2004, il resto lo illustrate voi perché io stasera non ho voglia di parlare. Chi è che va? Allora, se dobbiamo cominciare a parlare di cose serie, vabbè, non saremo stati buoni. Facciamo finta. No, niente, abbiamo incominciato a suonare forse anche un po' prima del 2004, ma nel 2004 abbiamo cominciato a dedicarci a fare i concerti con le canzoni fatte da noi, insomma, ecco. E abbiamo passato diversi periodi compositivi perché all'inizio ci piacevano delle cose, adesso ce ne piacciono delle altre. Abbiamo sempre cercato di fare quello che ci piaceva, infatti abbiamo sempre fatto fatica a trovare una produzione o una distribuzione fino a 2 anni fa, perché abbiamo sempre fatto un po' quello che ci pareva musicalmente. Però diciamo che siamo riusciti anche nel nostro piccolo a tirare su qualcosa di interessante. Abbiamo fatto più di 150 date in giro per l'Italia negli ultimi 5-6 anni. Abbiamo un paio di dischi distribuiti nei negozi della Goodfellas e probabilmente per marzo-aprile potremo registrare qualcosa di nuovo ancora, speriamo che sia ancora diverso dall'ultima cosa che abbiamo fatto. Nel caso la Caselli, pardon per il gioco di parole, vi raccattasse per strada, visto che lei scopre tutti, cioè scopre, li prende, li lancia da, in qualsiasi modo, 50 euro bocca culo. Perfetto, no? Vedo che sareste disposti, nonostante puntate tra virgolette a rimanere abbastanza indipendenti. Cediamo alle pressioni di una major, dai. No, allora bisogna vedere che cosa, di cosa si tratta, insomma, di cosa stiamo parlando, direbbe Cruciani. Perché... gran promozione sostanzialmente, perché... pochi introiti a voi per un bel periodo. No, non possiamo inserirci in un contesto che è troppo diverso dal nostro, ecco. Questo per noi è abbastanza importante, perché abbiamo avuto anche delle richieste da, tipo da qualche promozione, produzione, che era un po' troppo distante. Abbiamo pensato anche noi che era meglio dire di no, insomma. E avete trovato spazio lo stesso, siete riusciti a... diciamo faticando forse un po' più di altri, però è anche bello del mestiere, insomma, no? E invece la collaborazione con Goldfellas come nasce? No, è solamente la distribuzione, ci mette i CD nei negozi di internet. È fatto promozione per il disco. In quanto già peccato dell'anno 2009, se non sbaglio. Sì, sì, sì. Tra poco ascolteremo anche due tracce. Mentre presentiamo la prima traccia degli ospiti, Favotto. Eh sì, ci portano i Faith No More. Cosa che a me fa anche romanticamente piacere, perché è un mio amore giovanile. Chi è che la sceglie, sì. Faith No More? Sono stato io. Li segui dal 1982, ossia più o meno da quando sono stati fuori. A dire la verità, da prima. Questa canzone non l'ascolto dal 91, anche se del 97 se non mi sbaglio, però è veramente bellissima. Si chiama The Gentle Art of Making Enemies. Tu, Favotto, vuoi aggiungere qualcosa in merito o possiamo farla sostanzialmente partire tra una cosa e l'altra? Sì, beh, la dedico al Brado Machi. Ecco, e chi sarebbe? È un nostro grandissimo amico che appunto ha la gentile arte di crearsi nemici. Ok, Favotto? Bene, andiamo a sentirci Faith No More. Sei d'accordo? Sì, 97.8 Radio Shell. Che di poche parole che sei oggi. Then all you need is just one more. The Gentle Art of Making Enemies, questa era la traccia di Faith No More. Siamo rientrati su Radio Shadow 97800, Radio Sandona 102.2. Questa è Music for Youth e Mondo Cane era una produzione di Mike Patton subito dopo i Faith No More. Non mi ricordo più l'anno, però. A dire la verità, Mondo sì. Cane è dell'anno scorso. Favoto, intervieni a salvarmi. Sono... Salva gente. Sì, Mike Patton, persona poliedrica come il nostro regista video che ho di fronte. Cantante. Il cantante come anche Mike Patton che fa una serie di progetti tra cui appunto ricordo i Tomahawk perché a me piacciono e trovo che questi Elettro Fandango condividono il fatto che i Tomahawk siano un gran gruppo. È bello questo. Buon, adesso buttagli la domanda sapendo che non vogliono quella sul nome. Eh sì, non vogliono quella sul nome, per cui passiamo al disco. Non abbiamo mai detto. No, ma infatti, cioè non... Bene, perfetto. Perché vi chiamate Elettro Fandango? Non l'ho mai capito, vorrei sapere l'etimologia della cosa. Se tu fossi stato a quella data dei Tomahawk al New Age... Ah, l'avevi detto? Lo sapresti. Era tipo in un bagno, no? Suggerito a qualcuno. Favotto, dovevi carpire la cosa. Sì, sì, io infatti ero già partito con una mia domanda. No, porco a te, perché si chiama Elettro Fandango? Tu lo sai, visto che eri al concerto. Sì, io c'ero in Tomahawk, ma ero al bagno in quel momento. Ma c'erano anche loro? Dovevi sentirlo, per forza di cose, il fatto che loro si chiamano... Perché si chiamano Elettro Fandango? Avrò tirato lo sciacquone, mi perdo quei 5 secondi importanti in cui loro motivano, ovviamente. Va bene, dai, ne discutiamo in altre situazioni. Mentre lanciamo dell'Anni Travici, allora, parliamo del secondo disco. Come cambiano le atmosfere dal primo al secondo disco? Allora, come dicevamo in bagno prima, si può dire che il primo disco avesse delle atmosfere più noir, cinematografiche, mentre il secondo, diciamo che si sposta un po'... Anzi, il primo magari è un po' più un noir alla Scorsese, il secondo un po' più Cronenberg, un po' più David Lynch. Ok. E le atmosfere possono... Cioè, potrebbe darti un'idea, una cosa... Una cosa così. Come avviene il processo creativo all'interno del gruppo? Testi, musiche, come funziona? Avviene tutto molto, molto, molto, molto, molto lentamente. Io pensavo un molto, molto random, molto, molto in gruppo, molto lentamente. Molto lentamente. Noi siamo un gruppo rilassato, proprio. Tipo, per fare un disco ci mettiamo 3 anni. Beh. Bene, cioè, alla fine però sì. è un parto comunque sentito, insomma, no? Sì, dolorosissimo, infatti anche nella copertina abbiamo messo una donna incinta. E vedi che... è proprio un parto. Chi è che fa le grafiche? Questa domanda che arriva dal nulla. Nessuno di noi, però è un nostro amico che tra l'altro ha fatto anche grafiche molto riconosciute ultimamente, si fa chiamare Eviac. È stato per parecchio tempo il grafico dei OJM, Go Down Records. Adesso fa il grafico per la Trova Robato come etichetta, fatto noi, gli Eterea, Bologna Violenta. Poi ha lavorato anche sull'ultimo video dei Verdena, insomma si sta dando parecchio da fare. Non sai perché te l'ho chiesto? Perché pensavo le grafiche te le facesse Alberto, per quello. No, Alberto è troppo impegnato a scrivere i testi e le comporre, a cantarli e a comporre l'arrangiamento. Infatti tutti ci dicono: Alberto parla lento, è anche molto lento a comporre, è lento a fare i video, ci mette tanto a fare tutto, e noi siamo dietro a dirgli: dai Alberto, lo ringraziate per aver messo la sua vita in gioco per voi. Volete specificare il perché? C'è un motivo o era solo una sparata? Perché sta bene sul disco. Quando l'abbiamo conosciuto era un ragazzo felice delle superiori che tutti davano come futuro genio, ingegnere, insomma adesso è un disoccupato e non ha più nessun obiettivo nella vita, fatto grazie progressi. A noi. Diciamo che si è rovinato completamente, ci ha regalato la vita. In quanto già peccato, andremo a ascoltarci una canzone. Non abbiamo scelto la solita, che immagino vi sarete pippati in tutte le radio, e abbiamo scelto Mandragola. Chi mi parla di questa traccia? Io vedrei bene il batterista parlarmi di questa traccia, tra una cosa e l'altra. Sì, anch'io. Sì, suono relativamente poco in questa canzone. Appunto. No, comunque in realtà l'ha scritta il chitarrista. Però Alberto, Alberto, sì, che niente, praticamente parla di questa Penso mandragola, cos'è, una radice? No. Avete veramente fatto la scelta più brutta a farlo parlare lui? Perché... ma dai, non so niente, lo vedevamo un po' distratto, per cui bisognava riportarlo in qua. Chi vuole tracciare un filo, no, un attimo? Diciamo che mandragola è quella che si scosta un po' di più, perché è anche nel primo CD. Nel secondo l'abbiamo fatto un po' un remake e l'abbiamo fatta un po' più pestata. Comunque in origine parte da delle corde di De André come poetica, diciamo. Uh-huh. E in realtà poi l'abbiamo... No, diciamo cose che piacciono agli ascoltatori, sì, tu devi tenere viva l'attenzione. No? Allora, cosa devo dire? Buttiamo giù un po' di nomi, facciamoci Giovanni, sentire fighi. Allora, Mandragola è una canzone che è nata dopo aver letto il libro di John Fante, La confraternita mm-hmm. dell'uva, questo non lo sapevo, che tutti voi dovreste conoscere in teoria, e dove si rinarra di questo Angelo Musso che aveva la sua cantina in mezzo ai campi, in mezzo alle viti, e si beveva così il vino tra compagni, e noi abbiamo voluto fare una canzone che parla appunto di questo. C'è il batterista infatti... disorientato, cioè... ma non importa. Andiamo ad ascoltarcela, Favotto, tu fai sì con la testa, quindi stiamo sostanzialmente d'accordo? Sì, sì, io se taccio acconsento io. Perfetto, degli Elettro Fandango, questa è Mandragola, Music for Youth. Tra i miei denti mi serve per conquistarti, lo curo con magica attenzione, lo porgo alla tua devozione, lo spio con flemmica passione e il nettare lo imbevo nel cotone, riesco a creare un succo prelibato per le narici e per il tuo palato, ma è gustoso solo all'apparenza, perché di veleno è fatta la sua essenza, perché di veleno è fatta la sua essenza, perché di veleno è fatta la sua essenza. Palpebre cadenti e un po' in un lampo un po' rallentatore, che le tue mani coprono il mio onore e alla tua vista non so più che fare e la vergogna non posso evitare, ti accasci su di me ed io non so perché l'ho fatto per ripicca o solo per Mandragola, gli Elettro Fandango, questa è Music for Youth. Siamo rientrati in studio e a quanto pare gli Elettro Fandango restano su un canton dello studio, nel senso che ce la giochiamo io e te, Favotto. Sei contento? Beh, parzialmente, se devo dire. E per andare incontro alle nostre scelte, sai che cosa ti ho fatto? Cosa mi hai fatto? Ho scelto un artista che piace a tutte e due. Eh sì, Bright Eyes. Sì. Questo singolo ci potrebbe anche fare potenzialmente un po' schifo, comunque, a dire il vero. Ultimo estratto da The People's Key, che esatto, deve ancora uscire. Sì, ultimo estratto, meglio, primo estratto e anticipazione del lavoro che, per i ben informati, segna una svolta nelle musiche di Bright Eyes. Ma va, sei tu il ben informato. Letto sul Guardian questa mattina. Ma in che senso una svolta? Cioè, che becca un muro come... Senna? Cioè, cosa fa? Senna. Si è piantato, quello di Formula 1, te lo sì, ricordo? Sì, sì, ecco, no, perfetto. Quello che si lancia in aria come Laika, però lui riscende. Esatto. È una svolta musicale così netta? O... Beh, si parla di qualcosa di abbastanza verace, insomma, ah, sì. Come un po' le vongole. Ci aveva anche parecchio sorpreso con l'album mezzo acustico e la parte elettronica. I titoli non ve li diciamo, uno è... Sono lunghi, più che altro perché sono lunghi. Più che altro perché non abbiamo la memoria di un pesce rosso. Non in questa è vero, trasmissione. Dai. I'm wide awake this morning. E Digital Ashen e Digital Earn. Eccotelo. Vedi molto che per una volta ce le ricordiamo le cose. Molto bene, a questo punto, licenzia questo nuovo album. Bright Eyes, credo che non servano molte presentazioni, anche perché se ascoltate questo programma è qua una volta sì, una volta anche sì. E come dire, il singolo ha un... Che sonorità ha Terza Riol? Ma c'è un po' di synth, un sì. po' di anni 80, molto vagamente, ma proprio vaghi. Sì, perché questo 80... Ma come me lo cataloghi? 80 voglia. 80 voglia di te. Buono, esatto. Dai. Bright Eyes. Questa da The People's Key si chiama Shell Games, ed è il primo singolo estratto dal prossimo album in arrivo. Took fireworks and the vanity, the circuit board and the city streets, shooting stars, swaying palm tree, laid it at the arbiter's feet. If I could change my mind, change the paradigm, prepare myself for another life, forgive myself for the many times I was cruel to something helpless and weak. But here I come, that heavy love, I'm never gonna move it alone. Here I come, that heavy love, tag it on a tenement wall. Here I come, that heavy love, someone gotta share in the load. Oh, here I come, that heavy love, I'm never gonna move it alone. Something pure, death obsessed like a teenager, sold my tortured youth, piss and vinegar. I'm still angry with no reason to be at the architect who imagines for the every man blessed Sisyphus, slipping steadily into madness. Now that's the only place to be free. But here come that heavy love, oscilloscopes, distorted facts I could never cope. My private life is an inside joke, no one will explain it to me. We'll be everything that we ever need. Everyone on the count of three, everyone on the count of three, all together now. Here come that heavy love, playing as the cylinder rolls. Here come that Shell Games di Bright Eyes, questa è Radio Shell 97.800 e Radio Sonona 102.2. Favotto, ci è piaciuta sì e anche no? Beh, abbiamo avuto delle emorroidi molto meno dolorose. Sì, sostanzialmente sì, ma l'abbiamo buttata là. Sì, sì, alla fine io... Dire anche una battuta? Sì, sì, prego. È più facile partorire un disco degli Elettro Fandango. Sì, dici? Guarda che questo la dice lunga sulla questione. No, vorrei anche dire che noi siamo dei grossi fan di Bright Eyes. In realtà, sì, renditi conto, te la falcidiamo. Noi l'abbiamo proposta, poi sì. Ognuno ne traga le... Si faccia le proprie conclusioni. Esatto, siamo tornati in studio, ci sono gli Elettro Fandango, sì. Ce ne siamo accorti. Io ho un batterista pronto alla mia sinistra, sì. Che vuole rispondere a una tua domanda. Sì, la mia domanda è... Ti accorgi di essere il batterista di Elettro Fandango? È duretta questa da rispondere, aspetta. Ma soprattutto, com'è essere il batterista di Elettro Fandango? È frustrante. No, perché? Perché? Perché frustrante. Sì, si frustano le bacchette sulle pelle. No, sto scherzando. È che è sempre un po' difficile tenere testa a chitarra e basso e voce, nel senso che non è che cerco i classici tempi quattro quarti oppure non so, tappeto eccetera, tutto fondo ghiacciato. Sì, esatto, tipo sì, parecchio. Stavo aspettando che lui finisse di parlare, intanto avrei ceduto la parola ad Alvise, avrei cambiato CD perché ho stoppolato sto CD di Noir Désir, ma non me lo ricordavo così pesante. A un certo punto voglio morire, ragazzi. Sì, ma... no, vabbè, comunque... ora intervengo tra poco, tu fate finta di niente adesso, fra poco ci sarà un cambio di musica, intanto ignoriamo. Ignorateci, Favotto tu fai, io provvedo. Sì, allora, io volevo invece adesso una presentazione invece del primo disco. Beh, abbiamo parlato un po' del secondo, invece il primo. La formazione innanzitutto è la stessa tra il primo e il secondo disco o è cambiato qualcuno? Se qualcuno risponde, sì, è anche un bel momento. Sasso, carta, forbice. È cambiata la formazione. È cambiata di poco perché comunque chitarra, voce, batteria e basso sono rimasti i quattro, diciamo, musicisti. Avete preso Alberto. E abbiamo avuto una sostituzione in campo, quindi abbiamo venduto un chitarrista e acquistato un proiezionista. C'è un nuovo sottofondo musicale, se lo state sentendo vagamente, ma una traccia a caso, però se volete lo faccio apposta, metto Jay-Z con Alicia Keys o una cosa del genere. Jay-Z. Vi fa piacere? Cioè io non approvo, però possiamo bilanciare il vuoto pneumatico di prima. Assolutamente no. Butta Benny Benassi. Benny Benassi? Alicia Keys, ossia Alice Chiavi. Chiavi, perché una da buttare nel sile, visto che loro vengono... dalla provincia di Treviso, vero? Eh sì. Buon, perfetto. Siamo contro San Donà Treviso, basta, ho finito. Ah, sì, beh, Treviso però è primo in classifica. Sì, non, per carità, non mettiamo... ma banda le ciance, non avete qualcosa di Tommaso aspettano? No, mi dispiace. No, perché questa domanda? Ora la giustifichi? Da mettere sotto in sottofondo, se vuoi mettere o Jay-Z o Alice Chiavi. Ma guarda che io ci sono arrivato con ritardo. No, io l'avevo capito, però è il momento di stare in silenzio tanti giorni. Allora, no, parliamo di G. Scott Heron invece, che sì. È la scelta del quinto, il lavavetri degli Elettro Fandango, che ora si paleserà al microfono. No, però io volevo comunque spezzare una lancia a favore del mio batterista, perché sì. Effettivamente è molto dura essere lui. Anche due, sì. Ma prima di tutto perché poi anche... nel live set lo mettiamo sempre davanti e lui è molto timido. Ah, sì? E vive la cosa in maniera molto combattuta. E in più lo mettiamo davanti anche a delle responsabilità e bisogna anche capire che lui ha una mentalità un po' fanciullesca, cioè nella sua testa ci sono delle fiabe, delle favole. Ma è il più giovincello della covata? Sì, anche si vede. È anche quello che attira di più, diciamo, dopo... dopo i concerti. È un po' l'uomo boy band della cosa qui. È carne fresca ancora. Carne fresca fa buon. G. Scott Heron l'hai portato tu, lavandaio degli Elettro Fandango. Come mi motivi questa scelta? C'è della vicinanza? Perché quando mi fanno delle domande tipo scegli una canzone, a quel punto ho pensato all'unica roba che ascolto tipo da un mese a questa parte, che è, diciamo, questo filone qui. Se, per quanto io non avessi mai ascoltato nulla prima suo, mi piace moltissimo questo disco e diciamo mi sto spostando come ascolti, soprattutto in un ambiente di questo genere. Mi piacciono molto anche i The Roots, per dire. Mm-hmm. E Alberto, che è un po' la mia fata del dentino, mi sta consigliando anche altre cose interessanti, tipo Ganja Sufi. Le preferisco piuttosto che gli anni 90 o altre cose ultimamente. A parte che io proprio quello che è tipo prima del 2011, adesso darei fuoco a tutto. Mi interessa. Diamo spazio a quello che c'è, che ci sta davanti. Che tra l'altro questa è un po' una poesia canzone, chiamiamola così, che è una poesia cantata, sì, che poi, su base sostanzialmente. A parte quello, in più anche riprende il testo di uno dei primi chitarristi, sì, insomma, quello che ha venduto l'anima al diavolo, che parla appunto di questa cosa coverizzata qua, tante di quelle volte, che metà fa basta questa canzone. E no, poi possiamo aggiungere che era stato raccontato anche in un film dei fratelli Coen, bellissimo, che si chiama Fratello dove sei. Sta per uscire il Grinta, anzi è già uscito il Grinta. Sì, è uscito, presentato a Berlino anche. Andiamola a vedere. Notevole successo di pubblico e critica, e a questo punto posso smetterla anche con questo tono professionale, perché non ne ho assolutamente diritto. Io apprezzo la scelta, se devo dire, lo spoken a me ha sempre dato una soddisfazione. Se posso suggerire un gruppo recente in questo filone che a me dà delle soddisfazioni, ascoltatevi i Listener, che in Italia tra l'altro tutto questo filone adesso è ripreso parecchio alla Tempesta Dischi, ho visto, perché ne stanno catalogando parecchi su questo filone, mi pare. Una novità, quello che mi dici mi stai sconvolgendo, perché andiamo a ascoltarci G-Scott Iron, questa è Me and the Devil. Time to go. Me and the devil. Jill Scott Heron, questa era Me and the Devil. Siamo tornati in studio, Music for Youth. Grazie per la scelta musicale, l'ho apprezzata veramente. Pavotto, sì, anche mi io. Sento di ti senti di sottoscrivere dalla faccia, mi pare proprio di sì. Sì, mi ripeterò, ma sì, io sono un estimatore. Elettro Fandango in studio con noi e si presenta la seconda traccia estratta da In quanto già peccato del 2009, in attesa del terzo capitolo degli Elettro Fandango. La terza traccia estratta, Dal furore alla cenere, chi me la giustifica? Io non vedo l'ora che Alberto dica qualcosa, eccolo là. Proprio. Ma sono l'ultima persona che può dire qualcosa. No, tanto dopo devi dire qualcos'altro sull'Heliocentrics. Fai conto te. Allora parlo dopo. No, ormai ci sei. Allora, so per sentito dire che prende tipo il titolo da un romanzo di Carlo Emilio Gadda, che è proprio Dal furore alla cenere, però la canzone parla completamente di un'altra cosa. Proprio sto riferimento da due soldi, no? Per il fatto che noi abbiamo visto il titolo e detto figata, poi il libro che cazzo non l'ha letto. Esatto. C'è continuità tra le vostre scelte culturali e le conseguenze musicali. Però per quanto mi riguarda da ascoltatore, credo che sia uno dei pezzi più belli. Per me è una cosa... Detto dal cantante. Però. Sì, detto dal cantante, è un sì. Po' una porcata. Sì, non ci avevo pensato. È da uno che chiude gli occhi quando lo dice. Se la fa, se la suona e anche pulisce quando ha finito, a quanto pare. E se la canta nel suo caso. E se la canta, sì, perché in quanto cantante. Andiamo ad ascoltarcelo. Vi prego, volete aggiungere qualcosa su questo CD mentre noi non siamo in grado di fare domande? Volete parlarci del live? Lo diciamo dopo. Scriveteci sul MySpace e compratelo, che abbiamo bisogno di soldi. E beh, ragazzi, adesso in radio sti imperativi categorici, cioè così. Perché non è che la gente... Effettivamente... Ci aspettavamo delle domande più pronte, più preparate. Cioè qua c'è un sacco di carne al fuoco che aspetta di essere mangiata. Allora, il vostro cantante mi ha spedito la cartella stampa. Scusate, ero molto impegnato, per quanto io possa dire impegnato. Mi ha spedita solo oggi pomeriggio. Ho scritto: Lele, leggitela. Se ti va bene, boh. Altrimenti non importa, altrimenti ciao. Vaffanculo. Esatto, cioè, non so. Il vostro cantante deve... Fategli una ramanzina. Stabilite... infatti, grazie per il trattamento. Questi sono gli Elettro Fandango, dal famoso titolo del famoso libro di Gadda agli Elettro Fandango sconosciuto. E io vorrei sottolinearlo. Cioè, perché a me, a te, no, non ho capito. Io e te, profondi conoscitori, mi ho anche tenuto di seminari. Beh, certo. Dal furore alla cenere, questa è Music for You, Radio Sherwood, Radio Sandonà. dal furore alla cenere, Elettro Fandango a Music for Youth, ma minchia che ospitata. Sì, infatti, cioè, i nostri cavalli di battaglia qui capitanati dal batterista che ora ci parla estesamente dei live degli Elettro Fandango, perché ci dicevano prima qui che il batterista ha un ruolo fondamentale nel live, nel senso che praticamente il frontman qui di fronte a me, Alberto, infatti di frontman a me rimane dietro le quinte, mentre il batterista è un po' il centro dell'attenzione. Non è vero, è sbagliato. Ma perché devi smontare sempre tutta l'attività di chi ti crea questo piano quinquennale attorno? Non so, ragazzi, io stavo passando per caso. No, niente, appunto, come diceva prima il tastierista, ricordiamo Giovanni, non è il cantante, è il tastierista. Mi piazzano sempre davanti, di solito ci mettiamo in fila e non a trenino, perché mi state chiedendo ultimamente piace. Esatto, per 3:42. E niente, comunque sono abbastanza dei live abbastanza appestati, teniamo dei volumi molto elevati e, come dicevamo prima, c'è anche un video proiezionista ci segue la nostra musica, e quindi cerchiamo di dare anche una visione tutto attorno, cioè non solo per quanto riguarda l'udito ma anche la vista. Oh, parleremo anche del video proiezionista, ma tu, tastierista, cantante, non sto parlando di te, Alberto. ci vuoi parlare di questi 150 live, un po' com'è andata? Avete supportato qualcuno? Abbiamo avuto l'occasione, sì, di fare anche noi gruppi spalla, diciamo, a quelli che ti riempiono un po' il curriculum, perché abbiamo suonato assieme a Lidia Lunch, abbiamo suonato assieme a Giorgio Canali, agli UFO Mammut, abbiamo aperto Lidia e Gallon Drunk assieme a lei, abbiamo suonato anche 3-4 volte col Teatro degli Orrori. Allora, io vorrei sapere se avete un gruppo, pensa all'originalità di questa domanda, avete un gruppo che vi accomuna, una cosa che piace a tutti e tre? Una, solo una. Una. Questa domanda è molto difficile, molto. Aspetta, a tutti e tre, quelli che sono qua in studio che suonano? O a tutti e tre e Alberto? A tutti e tre e Alberto, che o a tutti e cinque? Un gruppo credo che c'è comune, di cui abbiamo parlato prima, o a tutti e cinque del nostro bassista che non c'è qua stasera, al quale non c'è comune questo gruppo? Facciamo a tutti e quattro, meno che il batterista, che a quanto ho capito. Allora, a noi quattro credo che ai Tomahawk piacciono a tutti. Sì, buono, ok. E invece, se vogliamo ampliare ulteriormente la cosa, i Tomahawk vanno ancora bene oppure? Ma sì, ma alla fine ci sono la base, un po' piace a tutti, e noi abbiamo ascoltato tanto Tom Waits e piace a tutti, ma poi anche, diciamo, le fondamenta, i Caius e i Queens of the Stone Age piacciono a tutti. Hola, bravi, ragazzi. Poi ovvio che ognuno ha i suoi gusti, io non... Cristina D'Avena te l'ascolti a casa sostanzialmente. Non cerco di convincere Frankie ad ascoltare Cristina D'Avena, perché so che non gli piace. No, io l'ascolto tutti i giorni e comunque Zucchero spacca un casino. Volete Zucchero? Volete? È un peccato morire l'ultima, io non ci ho capito niente di quel testo e tuttora ogni giorno, ogni volta che la sento, mi chiedo il perché sia stato messo giù in quella maniera. Vabbè, no. Vogliamo parlare un attimo di Remo Remotti o cediamo la parola? Vedo che fremiamo tutti quanti nell'ascoltare le parole di Alberto. Anche perché sono così così dilatate, lui parla così piano che è come tipo l'oro colato col contagocce. Alberto, a te la parola, anche per gli Heliocentrix, che è la scelta successiva degli Elettro Fandango. Quindi devo giustificare la prossima canzone? Tendenzialmente sì. Allora, io personalmente ho scelto Before I Die, che è una delle tracce di metà del primo disco di Heliocentrix, che si intitola Out There, che per quanto mi riguarda sono uno dei gruppi più freschi che ho ascoltato negli ultimi anni, e fanno questo mix di musiche partendo dal jazz e portano un po' avanti la tradizione musicale di Sun Ra, che a me sinceramente piace, e credo anche che sia un ascolto divertente, non per forza impegnato come lo può essere magari quello di questo genere, insomma. a me piacciono tantissimo. E basta. Come me l'ha argomentato bene, Favotto. No, guarda che veramente, cioè... 10 lode. Parole di Francesco Abadori, ti direbbe qualcuno. In quel caso si torna a parlare di pollame, e a questo punto, che è un argomento che io un po' domino, heliocentric, tra l'altro. In partenza jazz, influenza anche molto funk. Senti di essere d'accordo sulla parte funk? Sì, oppure? Sì, sottoscrivo. Oh, beh, un momento in cui... Voto finalmente hai dei proseliti e un seguito. Di saperne qualcosa di musica. E poi questo, un legame a doppio filo con DJ Shadow, se non sbaglio. C'è nel mezzo della collaborazione anche lui attraverso qualcuno, a quanto pare, un certo Malcolm Catto. Catto cosa? Sai, cioè, è la domanda che ci resterà nella testa mentre ci ascoltiamo Before I Die degli Heliocentric. E questi erano gli Heliocentric, Music for You. Siamo arrivati quasi in finale di puntata, a Favotto. Puoi prendere un bel respiro ed essere felice per un'altra settimana d'aria. Eccolo là, una bella alitata in fronte al microfono. Perché c'è una citazione di Santa Brigida sul CD? Domanda random così, ma vedo Alberto pronto a rispondere con tutti i capelli sgarizzati. Perché tra l'altro è una frazione di una città dove abita vicino il tastierista e in più perché comunque qui dentro al gruppo ci sono dei grandi appassionati di teologia cattolica e che quindi sono andati a spulciare in questo grande patrimonio dell'umanità per trovarne fuori insomma qualcosa di utile anche a noi, dato che è utile per fare soldi eccetera, può essere utile anche a noi per dare dei significati profondi. Pensavo di Brigidini nel senso dei biscotti, ma io ho visto Santa Brigida e ho pensato Santa Brigitta, forse la Bulgari, no vabbè lasciamo stare. Sì, qualcuno mi fa attenzione, gli elettrofandango si attivano su Brigitta Bulgari, no. Ed è quello che mette d'accordo un po' tutti. Brigitta Bulgari, patrimonio dell'umanità e anche dell'UNESCO, sì, tuteliamola come ottava meraviglia del mondo. Siamo arrivati in chiusura di puntata. Giusto il tempo di ricordare i contatti di Elettro Fandango oltre ai nostri, in velocità, a favore. Io andrei con prima. Innanzitutto l'ospite, quindi direi i contatti degli Elettro Fandango. Chi li dice tra una cosa e l'altra? Ci pensa Giovanni. E vai. Voce sinta, dai. Allora, MySpace è www.myspace.com/elettrofandango. Di cui poi andavamo molto fieri, avevamo pimpato alla grande e MySpace ce l'ha cancellato. Brutalmente negli ultimi due mesi. Perché? Perché ha revisionato tutti il layout, perché vi ha sconfusionato la grafica. Si è facebookato. Esatto. E contando le vostre lungaggini in campo musicale, che ci mettete 3 anni per confezionare un CD, figuriamoci un nuovo layout. È stato molto fastidioso, però ci penserà Alberto, guarda, io te lo dico, ma vedo Alberto preso bene. Abbiamo cercato di ripiegare così, per il rotto della cuffia, è sistemato, vabbè. Potete comunque ascoltare le tracce, ci sono i contatti anche per contattarci, appunto. È sempre meglio che comunque Facebook, perché lo segue, sì, il nostro teologo di fiducia Alberto, però è sempre Facebook, dai, insomma. Per le band sappiamo bene che cosa è meglio. È blu. E bianco. È bianco, eh. È un Marines, dai. Sparare a vista subito. Oh, è trevisano. Facebook è fondato da un trevisano. Zuckerberg è un trevisano. Queste domande troveranno forse risposta? In un qualche modo sì. Innanzitutto telefonandoci allo 0421 56 0993, altrimenti il servizio Music for Youth Pimp My Cucina, ossia vuoi delle pentole glitterate, un fax 0421 56 0994, ti glitteriamo anche le padelle, altrimenti radio@radiosandona.it e ti facciamo delle simpatiche animazioni su forchette e coltelli con dei piccoli Pac-Man che si muovono sulle lame. Pensa che meraviglia. Potete proiettare le vostre grafiche personalizzate Music for Youth sulla nostra pagina di Sharewood, altrimenti andate su musicforyouth.wordpress.com, è il blog nel quale trovate questa puntata e tutte le altre in streaming e mp3 podcast a qualsiasi ora della giornata. È utile soprattutto prima di andare al bagno questo programma, ve lo ricordo. Sì, stimola. E poi basta, che altri contatti ci sono? Quelli in Facebook. Beh, loro non gli piaceva quello in Facebook, quindi io non lo ricordo per oggi. Va bene. Il nostro. E allora a questo punto. A questo punto interviene il batterista. Perché è lui che ha scelto Nick Drake, Pink Moon punto... come traccia di chiusura della puntata. Eh sì, è il momento. E tutto torna e va verso il batterista. Sì, ho scelto questa traccia perché non c'è la batteria. Essenzialmente questa è la motivazione. No, è anche perché ho un gruppo solista, appunto, che si chiama Io e la mia chitarra. No, dai, devo dirla seriamente. Ma perché hai questi tipi di problemi tra una cosa e l'altra? Io e la mia chitarra. Ok, l'ho detta seriamente. No, niente, è l'ultima canzone che ho ascoltato. Mandatelo 610. Pensavo avessi scelto perché è morto, sepolto di antidepressivi. Ma no, mi pare. Io non lo conosco neanche questo Nick. Questo Nick chi è? Nicola Draco, cosa mi rappresenta? Poi sta Luna che poi non so se è rosa o pimpata. Questo è morto, cioè mentre ascoltavo i concerti brandeburghesi di Bach. E sul comodino aveva una copia del mito di Sisifo. Cioè, ci rendiamo conto, Favotto, che io e te andiamo avanti con le ore mese e il gingerino? Cioè, c'è una differenza sostanziale tra lui e noi. Sì, una delle differenze sostanziali è tipo che noi siamo vivi. Cioè, anche quello. Ringraziamo Elettro Fandango per averci fatto compagnia in quest'ora ciarpame, che tutto dobbiamo sommato... dare i contatti. Allora Marco 333 411 4243, no, 33. Giovanni 388 9401 498, oh, Alberto, Alberto vuoi dare il tuo? 335. Questi sono veri, se volete, sì, cioè ascoltatrici. Io spero che prendete qualcuno nota. Spero che in una casalinga di Voghera 60. Allora, allora Francesco, diciamo i contatti, è giusto, cioè, sul contratto. Sì, ma no, tutti. Ho le lenti a contatti. Dai, salutiamo, è stato un piacere per noi venire qua. E speriamo di tornare quando abbiamo qualcosa di fresco da proporvi. Ma dai. Quando volete, questi studi sono aperti. Bella questa Radio Sherwood. Beh, piaciuta, vero? È la sede staccata, no? Ma noi ci teniamo a sottolineare che è soprattutto Radio San Donà. Sì, dai, insomma, siamo cari alle nostre tradizioni, vero Favotto? Certamente sì. A questo punto, dopo aver ringraziato gli Elettro Fandango nelle persone di, in particolare il loro ragazzo immagine qui e il cantante Tuttofare, a questo punto andiamo a salutarvi e a ascoltare Nick Drake. Ci aggiorniamo alla prossima puntata, ciao a tutti. I saw it written and I saw it say, the pink moon is on its way. None of you stand so tall. The pink moon, and I get you all on the pink moon. Bingo moon.